Mare, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. 38enne muore accoltellato a Trieste, il padre tenta il suicidio, il genitore sarebbe reo confesso, ha avvisato lui stesso le forze dell'ordine. Pochi giorni fa era mancata la madre della vittima, moglie dell'uomo. Il Ministero delle Imprese ha convocato per giovedì prossimo il tavolo sulla vertenza Varsila, due i gruppi industriali alla stretta finale per rilevare lo stabilimento di Bagnoli della Rosandra. Crediti welfare da spendere sul territorio, il progetto del consorzio industriale di Maniago per i dipendenti delle imprese pordenonesi. Raggiunta l'intesa tra Regione e sindacati sul comparto unico che riguarda 13.000 lavoratori in Friuli Venezia Giulia, aumenti salariali tra i 65 e gli 83 euro per 13 mensilità. E i sindacati e Regione trovano l'accordo, i medici di famiglia potranno nuovamente consultare i referti ospedalieri dei pazienti. Tre mense scolastiche, una in provincia di Udine e due in quella di Trieste, sanzionate dai carabinieri del NAS per mancanze igienico-sanitarie. Rispetto alle irregolarità gravi trovate a livello nazionale, le mense del Friuli Venezia Giulia sono tenute bene. La morte a Trieste dello psichiatra Franco Rotelli, uno dei protagonisti della riforma psichiatrica in Italia, braccio destro di Basaglia, il cordoglio della comunità medica istituzionale, il ricordo di chi lavorò con lui per decenni. I candidati a sindaco disegnano il futuro di Udine. Tra i progetti, il ripensamento delle piazze principali e una zona franca urbana. Sabato 25, domenica 26 marzo torna l'appuntamento con le giornate Fai di Primavera, 21 i luoghi che saranno aperti al pubblico in Friuli Venezia Giulia. Buongiorno da Daniele Letti, Gian Francesca Vigori. In apertura uno sguardo al tempo, il cielo è generalmente sereno sulla regione. Le temperature a Trieste 5 gradi, a Gorizia e Pordenone 2 gradi, a Udine 1, fa piuttosto freddo anche in montagna, a Tolmezzo, Tarvisio, Forni di Sopra 2 gradi negativi, a Piancavallo meno 3, a Sappada meno 4 gradi, così come sul Monte Zoncolan e sul Monte Lussari, a Grado 6 gradi, a Lignano 4. Le previsioni, queste invece le previsioni dell'ARPA, cielo sereno o poco nuvoloso per velatura di passaggio, di prima mattina le temperature saranno piuttosto basse, congelate a fondo valle e localmente anche in pianura, 20 a regime di brezza. La cronaca ora con l'omicidio avvenuto ieri pomeriggio a Trieste, in via Foscolo, in un'abitazione privata. Un uomo di 38 anni con disabilità psichica è stato ucciso dal padre, reo confesso, che poi ha tentato di suicidarsi. L'uomo si è ferito al collo e un polso, ma senza lesionare arterie vitali. Ora è ricoverato in ospedale, dove è stato intubato dopo l'operazione chirurgica a cui è stato sottoposto ieri sera, ma non è in pericolo di vita. Il servizio. Aveva 38 anni Alberto Petronio, l'uomo ucciso dal padre in un appartamento del centro di Trieste, a pochi passi dall'ospedale maggiore. Petronio, che soffriva di disabilità mentale ed era in carico al Dipartimento di Salute Mentale della città, è stato trovato morto in un lago di sangue nel bagno dell'abitazione. A ucciderlo, colpendolo con un coltello alla gola, il padre, Marino, 67 anni, era seguito anche lui dai servizi di salute mentale. Proprio il genitore ha allertato le forze dell'ordine dopo aver tentato di suicidarsi ferendosi ai polsi e alla gola. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Come ha confermato la questura, l'uomo era rimasto vedovo da pochi giorni, una circostanza che potrebbe aver contribuito a spingerlo a questa decisione estrema. La tragedia arriva a soli 10 giorni da un altro caso simile che aveva scosso la città, l'omicidio-suicidio di una coppia di anziani coniugi trovati morti uno accanto all'altra sul divano del loro soggiorno. Trieste, Andrea Covre, TGR Friuli Venezia Giulia. Oggi si celebra la giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera. A Trieste, in Piazza dell'Unità d'Italia, alle 10 e alle 18 si terranno le cerimonie di alza e ammaina bandiera solenni organizzate dalla Prefettura. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, è atteso oggi in visita istituzionale a Trieste e a Gorizia. Alle 11 è prevista la visita alla Direzione Marittima, Capitaneria di Porto e al Porto di Trieste. Alle 12.40 circa Salvini visiterà l'Interporto di Gorizia. Al termine, il segretario federale della Lega incontrerà candidati militanti. Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, si recherà oggi in missione in Croazia e Slovenia. A Zagabria il vicepremier incontrerà il primo ministro Plenković e il ministro degli Esteri Grlić Radman. Al centro dei colloqui la partnership economica bilaterale. A Lubiana Tajani incontrerà invece la presidente della Repubblica Natasha Pirc-Mushar e il primo ministro Robert Golob. L'Italia è il primo partner commerciale della Croazia con un interscambio pari a oltre 8 miliardi di euro, mentre che con la Slovenia il volume degli scambi è pari a circa 13 miliardi di euro. Nei suoi incontri a Zagabria e Lubiana, Tajani affronterà con i suoi interlocutori anche le principali questioni regionali e internazionali, con un focus sulle migrazioni, sui Balcani occidentali e sulla guerra in Ucraina. Audizione stamattina in Commissione Lavoro della Camera sulla vertenza Wärtsilä, due le aziende che potrebbero subentrare al colosso finlandese nella gestione dello stabilimento di Bagnoli della Rosandra, anche se ancora non se ne conoscono i nomi. Intanto, un nuovo tavolo ministeriale con le parti è convocato per giovedì prossimo. Sono ridotti a due i soggetti, tra i quali la Mitsubishi, che potrebbero subentrare nel sito industriale di Wärtsilä senza fare ricorso allo spezzatino. Dall'audizione in Commissione Attività Produttive della Camera è emersa qualche notizia sulla trattativa in corso. Uno dei tre potenziali acquirenti, l'azienda tedesca Rheinmetall, colosso del settore degli armamenti, si è tirato indietro. L'interessamento era subordinato alla concretizzazione di alcune condizioni che non si sono realizzate, per cui Rheinmetall si sarebbe defilata. Su oltre 20 aziende che avevano chiesto di visitare il sito di San Dorligo della Valle, le manifestazioni di interesse sono state 5 aziende entrate nella cosiddetta data room, l'area virtuale nella quale i player industriali hanno accesso ad una grande mole di informazioni sul bene oggetto della vendita. L'audizione ha fatto seguito a quelle nelle quali sono intervenuti i rappresentanti sindacali. Ieri c'erano i vertici di Wärtsilä Italia, il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, il quale ha portato al tavolo della Commissione la novità del ritiro del colosso tedesco. Il presidente di Confindustria ha sottolineato che non si tratta di una notizia ufficiale, ma sembra comunque, da altre fonti, molto attendibile. Al tavolo si è parlato anche di punti di forza potenziali del sito, la vicinanza con il punto franco, l'aggancio al progetto della Valle dell'Idrogeno, ma non c'è nulla di concreto. Il tavolo ministeriale è stato riconvocato per giovedì 23. Al Ministero delle Imprese e del Made in Italy si dovrebbe capire se i due soggetti interessati al subentro e disposti a riassorbire le maestranze in esubero, 320 addetti, intendono presentare l'offerta irrevocabile. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. È prevista per questa mattina alle 10 nell'auditorium della ex sede di Hypo Bank di Tavagnacco la prima assemblea dei lavoratori di Aquileia Capital Services, ex ramo d'azienda proprio di Hypo che si occupa di recupero crediti, acquisito nel 2017 dal fondo americano Bain Capital Credit, che ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per 52 dei 100 dipendenti della sede di Tavagnacco. La preoccupazione dei lavoratori, specializzati in un settore praticamente assente nella nostra regione e che rischiano seriamente di dover abbandonare una professionalità decennale, riciclandosi in attività diverse, verrà condivisa con i sindacati territoriali del settore creditizio e con le autorità del comune di Tavagnacco, solidali fin da subito con i lavoratori e le loro famiglie. Trasformare welfare aziendale, spesso obbligatorio nel contratto collettivo nazionale di lavoro, in un valore condiviso e una risorsa per il territorio. È il progetto avviato dal Consorzio Industriale di Maniago. Il consorzio NIP di Maniago, 168 imprese insediate, 4.800 addetti, ha presentato un innovativo progetto di welfare territoriale. Le aziende aderenti metteranno cioè a disposizione dei propri dipendenti crediti welfare da spendere tramite un'app in acquisti di filiera corta nelle attività locali, anche per piccoli importi. Il consorzio ha messo a disposizione una piattaforma digitale comune, una decina le aziende che hanno già aderito per oltre 1.200 dipendenti. Renato Piazza è presidente del consorzio NIP. Lo spirito dell'iniziativa è legato alla legge sviluppo impresa che ha assegnato ai consorzi una nuova missione che è quella di ente di sviluppo economico territoriale, quindi non solo consorzio industriale. L'essere ente di sviluppo economico vuol dire guardare anche gli aspetti industria, commercio e il progetto di welfare va in quel senso lì, mettere a sistema industria, commercio e dipendenti per avere delle ricadute economiche sul territorio maggiori di quelle che abbiamo fino adesso. Saverio Maisto, direttore del consorzio. È un obiettivo molto chiaro. Per le aziende è rafforzare il rapporto con i propri dipendenti, per gli esercenti un'opportunità di business, per i dipendenti star bene in azienda e star bene in un territorio. Funzionerà attraverso una piattaforma dove sarà il dipendente a scegliere dove investire, dove spendere il proprio credito welfare, e un metodo di pagamento molto semplice che permette transazioni anche molto piccole al fine di aiutare anche il piccolo panettiere della piazza di Maniago, Meduno, piuttosto che del territorio. Maniago, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Comparto unico, aumenti del 3,45% sulla parte tabellare, che corrispondono a incrementi salariali dai 65 euro agli 83 per 13 mensilità, e ancora incrementi anche sul salario accessorio e sulle indennità. È quanto prevede l'intesa raggiunta sul contratto regionale del comparto unico Regione Enti Locali, valido per il triennio 2019-2021. A firmare l'intesa con la Regione, CGIL, CISL, UIL, UGL, che si sono detti soddisfatti per un'intesa che introduce migliorie in materia di ricongiungimento familiare, permessi e progressioni verticali, con l'obiettivo comune di far fronte all'emergenza personale che colpisce in particolare i piccoli comuni. È stata condivisa la proposta datoriale di incentivo alla permanenza nei comuni fino a 3.000 abitanti e sotto gli 8 dipendenti. Due passaggi necessari per l'entrata in vigore del nuovo contratto per gli oltre 13.000 dipendenti del comparto, il passaggio dell'intesa in giunta e il via libera della sezione regionale della Corte dei Conti. Si avvia una soluzione in tempi brevi il problema dei referti degli esami clinici divenuti invisibili per i medici di famiglia a causa dell'aggiornamento della privacy. L'impegno è arrivato dalla Direzione Centrale Salute della Regione. Da 10 giorni i medici di medicina generale non riescono più a consultare l'esito degli esami fatti dai propri pazienti in ospedale, prelievi, TAC, risonanze, disabilitata una funzione del portale che permetteva loro di accedere al fascicolo sanitario elettronico di ciascun assistito. Un disguido tecnico dovuto a un aggiornamento delle politiche di privacy, che però verrà risolto a giorni. La fumata bianca dopo un incontro a Udine tra i sindacati dei camici bianchi, che avevano sollevato il problema, e la direzione centrale salute. Fernando Agrusti, segretario regionale della FIMG. La parte tecnica della regione ha preso nota delle osservazioni che noi abbiamo fatto. Ritengo assolutamente utile questo incontro, che ha probabilmente messo la parola fine a questa questione dei referti che non si riuscivano più a evidenziare. Sul tavolo nella riunione anche soluzioni per tamponare l'emergenza legata alle carenze d'organico tra i medici di medicina generale. La regione e i 3 sindacati, FIMG, SMI e SNAMI, hanno raggiunto un accordo di massima sul recupero degli avanzi di bilancio, quote destinate ai medici di base, delle aziende sanitarie nel triennio 16-18. Per la maggior parte verranno utilizzati nell'anno in corso per dare premialità ai dottori che lavorano in zone disagiate o incentivare incarichi provvisori. L'intesa, che potrebbe essere firmata già settimana prossima, varrà per il solo 2023. I sindacati stanno lavorando a un accordo integrativo regionale per il prossimo triennio, ma verrà discusso con la futura giunta. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Prende via oggi a Trieste il 26esimo congresso della sezione triveneta della Società Italiana di Andrologia, che durerà fino a domani. La sessione inaugurale alle 17 nell'Aula Magna dell'ospedale di Cattinara sarà dedicata al tema della sessualità nel paziente con disabilità. E sempre oggi, ma a Udine, si terrà un convegno dal titolo A proposito di endometriosi, che parlerà di una malattia che colpisce in Italia circa 3 milioni di donne e che nei casi più gravi può portare anche all'infertilità. Inizio alle 16.30 nel Salone del Popolo di Palazzo d'Aronco. Migliorare la prevenzione e la terapia di numerose patologie attraverso modalità condivise di gestione dell'attività di biobanca, struttura che raccoglie in modo sistematico, secondo definiti standard di qualità, campioni biologici relativi dati di persone sane o affette da malattie. È l'obiettivo del protocollo siglato dalla SUFC e dal CRO di Aviano per disciplinare le rispettive attività di biobanca, favorendo una più efficace collaborazione tra i ricercatori sul campo, con l'utilizzo di identici sistemi gestionali, comuni criteri qualitativi, modulistica uniforme. La ricerca per l'identificazione di biomarcatori per la diagnosi e la definizione di terapie specifiche individuali di diverse patologie, tra cui Covid-19, malattie oncologiche, malattie rare, sono tra le attività di Biobanca. La Biobanca SUFC, costituita nel 2021, è articolata sulle malattie associate all'invecchiamento. Quella del Crodi Aviano conserva circa 150.000 campioni oncologici di 10.000 pazienti. È morto ieri a Trieste, all'età di 80 anni, dopo una breve malattia, Franco Rotelli, uno dei protagonisti della riforma psichiatrica in Italia, tra i più stretti collaboratori di Franco Basaglia. Rotelli, dal 79 al 95, fu direttore dell'ospedale psichiatrico triestino, poi dell'azienda sanitaria locale del capoluogo e quindi consigliere regionale. Numerosissime le manifestazioni di cordoglio dal mondo scientifico, politico e istituzionale. Lezione di Franco, che era una lezione di cambiamento. Era Franco Rotelli in un'intervista di fine agosto 1980. Rievocava il suo maestro Franco Basaglia, appena scomparso, il padre della riforma psichiatrica, l'inventore della rivoluzione e delle sue parole d'ordine, aveva accompagnato la sua creatura per appena 10 anni. Toccò a Rotelli, il suo principale collaboratore, dare gambe e spalle a quel vento nuovo che investì l'Italia e andò oltre. Nei primi anni 70 l'ospedale psichiatrico di Colorno, in provincia di Parma, era diretto da Basaglia. E qui si ritrovarono anche Rotelli e lo psichiatra Beppe Dell'Acqua. Senza togliere nulla a Basaglia, penso che Franco abbia avuto un ruolo primario. Sposava la visionarietà di Basaglia e aver avuto negli anni 70 due uomini così significava che le accelerazioni erano enormi. Si dice l'eredità di Basaglia, sei venuto dopo. Non era per niente facile, era tutto da fare. Tutto. Quei 10 anni erano come un prologo, una premessa, delle parole fortissime, ma che se le avessimo lasciate lì si scioglievano come neve al sole. Franco in questo è stato molto capace, molto, più di tutti. E poi Dell'Acqua tiene a ricordare il sogno degli ultimi anni di Franco Rotelli. Si è messo a lavorare sempre nella sua visionarietà, sempre nella sua pazienza, per raccogliere l'archivio di 50 anni di San Giovanni. Franco è stato fino all'ultimo giorno, prima di andare in clinica e poi in ospedale e poi a casa, è stato lì tutte le mattine. Si deve fare quell'archivio. Questo è il lascito. Il resto sono chiacchiere. Trieste, Antonio Cagliazza, TGR Friuli Venezia Giulia. È la Leitner di Vipiteno in Sud Tirolo, adesso si è aggiudicata la gara d'appalto per la realizzazione della cabinovia metropolitana che a Trieste dovrebbe collegare Porto Vecchio e Carso. È in vantaggio sul progetto presentato dall'altra azienda in lizza, l'austriaca Doppelmayr. La base d'asta fissata dal comune partiva da circa 52 milioni di euro. Leitner ha offerto un ribasso dell'8,8%, che significa una riduzione di costo dell'opera di quasi 4 milioni e 600 mila euro. L'aggiudicazione formale arriverà nei prossimi giorni dopo che l'offerta sarà valutata nel dettaglio. Qualche altro appuntamento elettorale di oggi. Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, sarà da oggi in regione. Il primo appuntamento alle 11.30 a Udine nella sede del comitato elettorale del Patto per l'Autonomia e di Massimo Moretuzzo. Alle 15 sarà invece alla Tisana e alle 18.30 di nuovo a Udine. Il candidato presidente della regione per la coalizione di centrosinistra incontrerà poi i cittadini a Trieste alle 17.45 al Teatro Miela. Comincerà da Pordenone il suo tour regionale in supporto ai candidati del Movimento 5 Stelle per le elezioni regionali, l'ex presidente della Camera Roberto Fico. Agli incontri dalle 18.30 in sala Teresina De Gan in piazza 20 Settembre sarà presente anche il parlamentare triestino Stefano Patuanelli. Gorizia, Grado, Udine, Spilimbergo, Sacile e Trieste, le tappe principali della visita in Friuli Venezia Giulia del senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri tra oggi e domani. Il primo incontro pubblico questa mattina alle 11.15 in Corso Verdi a Gorizia. Tappa successiva nella sede della GIT a Grado alle 15.40. In serata previsti altri incontri privati a Udine e Feletta Umberto. Proseguono gli incontri degli ordini delle professioni sanitarie con i candidati alla presidenza della regione Friuli Venezia Giulia. Oggi l'appuntamento con il candidato presidente del Terzo Polo, Alessandro Maran, alle 16.30 all'Hotel NH a Trieste. La campagna elettorale a livello comunale si gioca anche sulle opere pubbliche e sui progetti di riqualificazione urbana. È quello che sta accadendo a Udine, dove tutti i candidati sindaco hanno presentato le rispettive visioni della città. La campagna elettorale è il momento per sognare e a Udine anche per disegnare il volto della città di domani. Il centrodestra, guidato da Fontanini, ha rilanciato l'idea di trasformare Piazza 20 Settembre in un mercato coperto, una struttura di vetro e ferro che può essere installata in 3 mesi a circa 2 milioni di euro. Il centrosinistra preferisce puntare su Piazza Primo Maggio, per Detoni dovrà essere collegata al Colle del Castello con una nuova area pedonale verde, lunga 180 metri e con larghezza variabile, un lavoro da 500.000 euro da cui partirà un processo di riqualificazione di tutta la città. Anche Marchiol di Spazio Udine, sostenuto dai 5 Stelle, punta su Piazza Primo Maggio, ma sul lato opposto, per pedonalizzare l'area verso il Conservatorio e il Liceo Stellini, a cifre che definisce irrisorie. Salmè, leader di Liberi Elettori, Io Amo Udine, dice no alle grandi opere. Vuole invece recuperare l'area della ex Safau, trasformarla in zona franca urbana e creare una cittadella delle start-up. Udine, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Torniamo alla cronaca, una nella provincia di Udine, due in quella di Trieste, sono le mense scolastiche del Friuli Venezia Giulia sanzionate dai carabinieri del NAS di Udine nell'ambito della campagna di controllo che ha avuto luogo a livello nazionale. Le sanzioni, tutte di livello amministrativo, riguardano in generale casi di pentole non pulite in maniera corretta, mattonelle del muro sfaldate che impediscono di pulire bene il pavimento o ancora crepe nel muro. I controlli si sono concentrati nei capoluoghi, nell'Udinese sono state ispezionate 14 mense, 10 nel Triestino, 8 nella provincia di Pordenone, 4 nell'Isontino. Come ha spiegato il comandante del NAS di Udine, rispetto alla situazione nazionale, dove su 1.058 mense controllate il 30% presenta irregolarità anche gravi, quelle in regione sono tenute bene. Un'operazione coordinata dal Nucleo di Polizia Ambientale della Polizia Locale di Trieste ha fatto emergere il riciclo sul mercato serbo e l'abbandono su strade periferiche di pneumatici usati. L'azione è partita a metà dello scorso ottobre in seguito al ritrovamento di numerosi pneumatici fuori uso abbandonati nella zona di Valmaura. Grazie ad alcuni appostamenti, la polizia ha individuato un uomo che ogni giorno ritirava da 3 gommisti triestini pneumatici obsoleti per poi abbandonarli a bordo strada. Attraverso ulteriori pedinamenti, gli investigatori hanno verificato la cessione di 16 pneumatici da parte dell'uomo a una terza persona che prima di lasciare il territorio italiano riferiva di fare da tramite con alcune officine in Serbia che acquistavano gli pneumatici per poi rivenderli. Si calcola che siano stati movimentati circa 200 pneumatici fuori uso nell'arco di 2 mesi. Denunciati a piede libero per gestione illecita di rifiuti, l'uomo e i titolari delle imprese coinvolte. Parliamo ora di gite scolastiche, del grande ritorno dopo il Covid. Trieste tra le mete più scelte per scuole medie e superiori. Studenti a frotte nell'area archeologica di San Giusto, silenziosi e attenti nei luoghi della memoria a partire dalla Risiera. E poi c'è il tour dei tanti siti sacri della Trieste multietnica e l'immancabile scatto davanti al castello di Miramare. Basterebbe anche semplicemente guardare la quantità di bus parcheggiati davanti alla stazione dei treni non solo, per capire che è davvero ripartita la stagione delle gite scolastiche in città sconvolta da 3 anni di Covid. Simone Milletti, docente di una scuola media sarda. Sì, è il primo viaggio dopo ormai 3 anni e finalmente poter far rivivere la cultura ai ragazzi. Questa classe arriva da Cagliari. Stiamo in giro per Trieste, poi abbiamo visitato ieri Padova, domani andiamo in Slovenia e poi visiteremo Venezia. E ci sono anche le gite interne, quelle delle scuole triestine come la primaria di Borgo San Sergio, intenta scovare richiami floreali su arredi e decorazioni del castello di Massimiliano, una sorta di caccia al tesoro botanica. Maria Rosalia Papalia, insegnante di scuola primaria. Intanto perché questo posto è magico ed era bello che i bambini potessero godere di questa energia che si respira in questo castello e questo parco meraviglioso che è stato ripristinato veramente in maniera bellissima. L'offerta turistica per le scuole si rinnova, un esempio il nuovo Miralab, spazio educativo didattico nelle serre del castello a 48 ore dall'inaugurazione, è già operativo. Sara Famiani, guida naturalistica. Serve integrare l'offerta del Museo Verde, che è il parco di Massimiliano, un museo che aveva bisogno anche di spazi utili al chiuso, dove poter fare attività laboratoriali. La risposta turistica delle scuole è talmente tanto forte che le guide non riescono a farvi fronte. Un numero consistente ha lasciato la professione durante la pandemia e ora c'è carenza. Giulia Pigni, guida turistica. Bisogna avere tanta passione, però è difficile anche lasciarlo. Quindi io confido che queste persone che giustamente per necessità hanno lasciato questo mestiere ritornino sui loro passi, perché noi le aspettiamo a braccia aperte. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli, Venezia Giulia. Sabato 25 e domenica 26 marzo tornerà al tradizionale appuntamento con le giornate FAI di primavera. Oggi la sezione regionale dell'associazione presenterà i 21 luoghi che saranno aperti al pubblico in Friuli Venezia Giulia. Ce ne anticipa qualcuno Michele Daccol, delegato alla comunicazione del FAI Friuli Venezia Giulia. L'obiettivo delle giornate FAI di primavera è sensibilizzare tutti noi sul patrimonio storico, culturale e paesaggistico che ci circonda, grazie al mostrare ai nostri concittadini quello che davvero abbiamo di eccezionale in tutte le regioni. Quali sono alcuni dei luoghi più significativi che saranno aperti nella nostra regione? Passiamo dalla tenuta di Villa Russiz in provincia di Gorizia, dove l'enogastronomia tipica si sposa con un lascito culturale a favore della beneficenza, alla Banca d'Italia di Trieste, un luogo normalmente inaccessibile legato all'architetto Berlan, per passare alla storia della coltelleria a Maniago nel Pordenonese, con 7 luoghi legati alla storia del ferro e della lavorazione di questo materiale, per arrivare a Falmanova con una chiesa legata all'Inquisizione veneziana, la chiesa di San Francesco. Le ultime novità in merito alle regole di applicazione del superbonus e al blocco della cessione dei crediti saranno al centro di un convegno organizzato dalla Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali e da Consumatori Attivi. L'inizio questa mattina alle 10 nella sede della Camera di Commercio di Udine. I giovani cervelli del Friuli Venezia Giulia si sfideranno questa mattina dalle 9.30 all'immaginario scientifico di Trieste nella selezione regionale delle Olimpiadi delle Neuroscienze, competizione internazionale dedicata alla biologia del cervello a cui partecipano le scuole secondarie di secondo grado. Un'occasione importante di approfondire argomenti a cui non sempre i programmi scolastici dedicano molto spazio, come ci spiega Aura Bernardi dell'immaginario scientifico. Le Olimpiadi delle Neuroscienze si basano sullo studio di un organo importantissimo, il cervello, che effettivamente quasi mai rientra nei programmi scolastici. Per prepararsi, il team organizzativo ha realizzato dei testi che i ragazzi possono trovare online, e inoltre ci sono anche le tavole anatomiche, tutta una serie di informazioni sulle quali i ragazzi possono facilmente prepararsi. Quanti sono i ragazzi che parteciperanno oggi e quanti verranno poi scelti per passare alle fasi nazionali? La gara del Friuli Venezia Giulia coinvolge 13 scuole e per ogni scuola ci sono 3 ragazzi che sono stati selezionati a febbraio nelle gare locali che le scuole hanno fatto all'interno dei propri istituti. Alle nazionali ne passa soltanto uno per regione, quindi noi andremo a selezionare il miglior concorrente del Friuli Venezia Giulia, che poi parteciperà alla fase nazionale che è in programma a maggio a Napoli. Intelligenza artificiale, la faremo decidere, è il titolo dell'incontro dibattito organizzato dall'associazione Club Alp Bach Senza Confini e Confindustria Udine, con l'obiettivo di analizzare lo stato dell'arte di questa tecnologia e le sue prospettive di sviluppo nella ricerca e nell'impresa. L'incontro, in inglese, inizierà alle 17 nella Torre di Santa Maria di Udine. E sarà inaugurata oggi alle 17.30 nel Palazzo del Monte di Pietà di San Daniele la mostra Il Mondo di Zeffirelli, dedicata al grande maestro del cinema italiano nel centenario della nascita. Domani, nel giorno del compleanno del regista, nella chiesa di Sant'Antonio si terrà poi un concerto di arie di Mozart, Verdi, Puccini e Donizetti. L'esposizione metterà in luce un aspetto di Zeffirelli poco conosciuto, quello di pittore e disegnatore, come ci racconta il presidente della Fondazione Zeffirelli, Pippo Zeffirelli. La mostra è un insieme di progetti e di opere che Zeffirelli ha fatto per diversi teatri, dalla Scala al Metropolitan, al Teatro dell'Oman, al Covent Garden di Londra e a Verona. Nella mostra si vedranno dei bozzetti, dei disegni, e più ci sono anche 14 costumi di varie opere e alcuni costumi disegnati da lui personalmente, altri invece da collaboratori, da costumisti diversi che hanno lavorato per lui e per quelle determinate opere. È molto interessante perché Zeffirelli è conosciuto come nome, come regista eccetera, però non è conosciuto come disegnatore. Questa mostra ci permette di ammirare uno Zeffirelli non così conosciuto. Tutte le sue idee, qualsiasi cosa lui avesse affrontato nella vita, che fosse un film, un'opera, una commedia, nasceva attraverso il disegno. È una mostra per far vedere, far conoscere un aspetto di Zeffirelli diverso, cioè Zeffirelli disegnatore, Zeffirelli pittore. Sta per chiudere la stagione sciistica del Friuli Venezia Giulia. Nei poli della regione fino al 26 marzo rimarrà aperta solo una parte degli impianti, tranne a Sella Nevea, in cui gli appassionati della neve potranno sciare fino al 10 aprile. Rimarranno in parte operativi fino a domenica 26. Ultimo giorno in calendario, i compressori di Forni di Sopra, Piancavallo, Ravascletto, Zoncolan, Sappada, Forni e Voltri e Tarvisio. A lunedì sono entrate in vigore le tariffe di bassa stagione e dal prossimo lunedì 20 marzo sarà applicato un ulteriore sconto del 30%, portando così a 19,50 euro il costo dello ski pass giornaliero. La nostra rassegna stampa. Cominciamo dal quotidiano Il Piccolo, che nella prima pagina dell'edizione di Trieste presenta una doppia apertura: la morte dello psichiatra Rotelli e l'apertura delle buste per la realizzazione della cabinovia di Trieste. L'alto attesina Leitner in vantaggio, la società di Vipiteno a un passo dall'appalto, tra due settimane l'aggiudicazione definitiva. E il tema è anche l'approfondimento del capocronaca. In prima pagina anche le richieste dei medici di famiglia sui referti online dopo la stretta sulla privacy. L'omicidio e il tentativo di suicidio in via Foscolo a Trieste, la crisi Varzila e il tavolo tecnico al Ministero convocato tra 7 giorni. Nella cronaca anche la statua di Monsignor Santin che sarà svelata domani in piazza Sant'Antonio. Apertura dell'edizione di Gorizia del Piccolo, accanto al ricordo di Rotelli, è sulla cerimonia dei Santi Patroni con il premio a Camossi e il riconoscimento in memoria dell'ex direttore del giornale Omar Monestier, tema a cui è dedicato il capocronaca. In prima pagina anche la cronaca: la dottoressa gli nega la ricetta, paziente reagisce minacciandola, ladri d'auto in azione alla Cona, rubata e distrutta una Fiat Panda. E poi la cronaca giudiziaria: anziani maltrattati alla casa di riposo a Farra, chiesti 19 anni per gli operatori. Il Messaggero Veneto di Udine apre con l'economia: spesa più cara del 13,1% a febbraio, inflazione in leggero calo, ma a Udine i prezzi continuano a crescere. A centropagina una fotonotizia dedicata alle prime linci liberate nel Tarvisiano, mentre a fianco altre due: la prima sul bambino morto 10 anni dopo un trapianto, la seconda sui ladri in azione al forte di Osoppo. Un richiamo dedicato agli autisti dei bus e la dunata alpina: siamo pochi, non ce la facciamo. L'apertura delle pagine di cronaca cittadina è dedicata al progetto di un mercato coperto con i prodotti del Friuli in piazza 20 settembre. L'idea prevede una struttura in ferro, vetro e ghisa. Sull'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto il titolo forte è sul primo esperimento di welfare territoriale a Maniago, credito da usare per acquistare beni e servizi. Al centropagina la fotonotizia sull'installazione di 2 nuove antenne a Pordenone. Entro l'anno tutta la città sarà cablata. Notizia questa che apre anche le pagine di cronaca cittadina. In alto un richiamo alla vicenda Cronospan: il comune di San Vito perde il ricorso contro l'ampliamento della fabbrica. A fondo pagina infine la cultura, i diversi linguaggi che si incrociano all'interno del festival Dedica. Il dorso di Pordenone del Gazzettino titola sulla siccità: acqua, regione pronta alla stretta, corsa contro il tempo per salvare le poche risorse rimaste, razionamenti e limitazioni arriveranno in netto anticipo rispetto alla stagione calda. A centro pagina pugno all'arbitro, maxi squalifica per il calciatore di prima categoria. Accanto la fotonotizia dedicata alle elezioni comunali di Fiume Veneto. In alto un richiamo alla situazione dell'Electrolux: dopo il mese più duro ad aprile non ci sarà nuova cassa. A fondo pagina infine 2 richiami di sport: il primo su Pordenone con il presidente Lovisa che parla di bel clima nella squadra, il secondo sul ciclismo, cycling team Friuli cerca gloria in Belgio. Sul dorso di Udine del quotidiano a cambiare la fotonotizia centropagina dedicata in questo caso alle 2 linci liberati nella foresta di Tarvisio. C'è poi un richiamo al contratto del comparto unico: regione e comuni danno l'ok. E un altro in alto agli spettacoli: i Baustelle ai laghi di Fusine per il No Borders Music Festival. Uno degli alberi di Kaki di Nagasaki, piante cresciute dai semi di un albero sopravvissuto all'esplosione della bomba atomica del 1945, cresce dall'aprile del 2012 all'interno del parco di San Giovanni a Trieste. Nel decennale della sua piantumazione si svolge oggi una giornata di festeggiamenti che unisce anche l'anniversario dell'uscita dalle mura del manicomio di Marco Cavallo, in viaggio il testimone della legge Basaglia. Il programma inizia alle 11:15, prevede momenti di riflessione artistici e musicali. Nel pomeriggio alle 15 al posto delle fragole la tavola rotonda dal titolo "Ciò che ci unisce per costruire la pace". Sarà presentato oggi alle 16.45 nella sede della Lega Nazionale di Trieste il 14° rapporto sulla dottrina sociale della Chiesa nel mondo, promosso dall'Osservatorio Internazionale Cardinale Van Tuan. Alla presentazione interverranno il vicepresidente dell'Osservatorio, Don Samuele Cecotti, e l'arcivescovo di Trieste, Giampaolo Crepaldi. L'Accademia San Marco di Pordenone ha organizzato una videoconferenza dal titolo Il soccorso in mare tra norme e prassi. Relatrice sarà la professoressa Francesca De Vittor, ricercatrice di diritto internazionale all'Università Cattolica di Milano. La videoconferenza inizia alle 17:00 e si potrà seguire su canale YouTube dell'Accademia. Presentazione oggi a Trieste per il volume Candore immortale del critico d'arte Luca Nannipieri, dedicato allo scultore Antonio Canova. Parteciperanno al dibattito la presidente nazionale d'Italia Nostra Antonella Caroli e il giornalista Zeno Saracino, alle 17:00 al Circolo della Stampa. Girato a Roma, Milano, Casarsa della Delizia, nella Laguna di Grado, il docufilm di Massimiliano Finazzer Florì, dedicato a Pierpaolo Pasolini, altri comizi d'amore, ripercorre le orme del poeta friulano con 46 interviste sul tema dell'amore. A conclusione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Pasolini, il documentario sarà proiettato questa sera alle 20:30 al Teatro Comunale di Monfalcone. Proseguono le trasmissioni della RAI dedicate alle elezioni del 2 e 3 aprile. Oggi va in onda la tribuna elettorale riservata alle liste in lizza per le elezioni regionali. Sarà trasmessa alle 13:15 sulla terza rete televisiva della RAI con replica radiofonica alle 17:05 su Radio 1. La tribuna si potrà poi rivedere su internet nella sezione dedicata del nostro sito rainews.it/tgr/fvg. Prima di chiudere vi ricordiamo che su questa rete, dopo il GR1 delle 11, andranno in onda i programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11:10 appuntamento con WEOF Velindi, alle 11:20 un tranquillo weekend da paura. I programmi regionali, come avete sentito, torneranno poi alle 13:29. Da Daniele Lettige e Francesca Vigori, che hanno redatto e condotto questo giornale radio, Tommaso Vinoni, che ha garantito la parte tecnica, Cristina Polselli in redazione. Grazie per la cortese attenzione. L'informazione radiofonica regionale torna alle 12:30. Ancora una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.